10? C'è un canale 10, c'è qualcuno? C'è qualcuno su 10? C'è un canale 10, c'è qualcuno? Avanti il fischio, chi è? Avanti il fischio! E beh, sai solo fischiare? Attenzione canale 10, copiate Antonio K.